Hai scritto in prima pagina un articolo oggi che dice Adriana Celetelli era corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, storica corrispondente, sebbene sia giovanissima, e hai scritto la tempesta non è finita. E sottolinei come il gioco dei dinieghi continuati rischi di farsi molto duro. Cosa vuol dire? Ma vuol dire che in sostanza, diciamo, finora si è cercato di porre rimedio alla crisi dell'euro con dei palliativi e ogni volta che si è cercato, diciamo, di risolverla con rimedi radicali, la Germania ha detto di no. Ha detto di no alla crescita, ha detto di no a una revisione del ruolo della BCE e quindi no agli Eurobond, alla mutualizzazione del debito e quindi in questo modo invece che aiutare la stabilizzazione dell'euro in realtà cronicizza i problemi dell'euro e naturalmente in una congiuntura politica come l'attuale, il 6 maggio prossimo ci saranno la Francia, la Grecia, l'Italia e due Länder della Germania che andranno a votare, i problemi e gli esiti elettorali, i malumori della gente rischieranno di aggravare ulteriormente, diciamo, le tensioni e i mercati ci potranno marciare sopra molto comodamente. Ora, questa è certamente una prospettiva che inquieta, soprattutto perché ci sono molti che tendono a dire ma no, in realtà la crisi è finita. Ieri per esempio al Parlamento europeo c'è stato un dibattito su questo argomento e il Parlamento aveva invitato sia il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, sia il Presidente dell'Eurogruppo Juncker, sia il Presidente della Banca Centrale Mario Draghi a un dibattito appunto sulla crisi dell'euro e sulla crisi dell'Europa. Nessuno dei tre si è presentato.